Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Aiuti alla Grecia, via libera del Parlamento tedesco al piano salva stati, borse positive, volano i rendimenti dei BTP italiani. Governo battuto alla Camera sotto di 23 voti sull'8 per 1000 dello Stato alla scuola pubblica, Letta ai giornalisti, giornate turbolente. Inchieste sulle escort, sui presunti ricatti al Premier, la Procura di Roma invia gli atti a Bari. Rifiuti a Napoli, arriva la messa in mora da parte dell'Unione Europea, presto potrebbero scattare sanzioni. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione di GR24. Partiamo con il via libera del Parlamento tedesco al fondo salva stati, una decisione attesa. Vediamo però com'è andata nei dettagli e nei numeri con Alessandro Merli del Sole 24 Ore. Alessandro, buongiorno. Allora, proprio pochi minuti fa è stato confermato il voto, l'85% dei deputati tedeschi, 523 su 611, hanno votato a favore dell'ampliamento dei poteri e delle risorse del Fondo Salva Stati, 85 hanno votato no, ma forse la cosa più importante era sapere se la maggioranza della signora Merkel, del cancelliere Angela Merkel, avrebbe tenuto e ha tenuto anche se solo per 5 voti, c'era stato una fronda interna nella maggioranza abbastanza forte sia fra i democristiani sia fra i liberaldemocratici negli ultimi giorni. Questa è rientrata certamente, una maggioranza di 5 voti non può essere molto incoraggiante per il cancelliere. Di fatto il problema politico del dopo voto è il confronto con un'opinione pubblica tedesca che è sempre più riluttante a fornire nuove risorse per i salvataggi in Europa, e l'altro dibattito naturalmente sul fatto che il fondo salva stati nella forma in cui è stato approvato dal Bundestag e da altri 10 paesi e dovrà essere approvato dagli ultimi 6 nei prossimi giorni si ritiene sia già insufficiente per far fronte alla crisi del debito sovrano in Europa. Vedremo che cosa succederà dunque adesso, grazie nel frattempo ad Alessandro Merli del Sole 24 Ore. Noi veniamo alla situazione dei mercati, chiediamo alla nostra Deborah Rosciani se c'è stata una reazione e se sì di che tipo. Deborah, buongiorno. Buongiorno, allora la situazione rimane come quella che si era manifestata questa mattina, c'era a quanto pare un'attesa positiva per questo voto tedesco favorevole e quindi il mercato che andava bene continua ad andare bene. No, vengo smentita in questo momento dalle cifre, perché Parigi è passata in territorio negativo, perde lo 0,09%, Londra lo è stata da questa mattina e continua a perdere lo 0,38%, Francoforte cede lo 0,46%, per cui l'unica piazza positiva rimane Milano, più 0,47%, grazie ai titoli bancari che stanno crescendo molto. Quindi questa è la situazione contrastata. Si affievolisce anche il cammino dell'euro sul dollaro, stamattina ben oltre la soglia di 1,36, adesso sta scivolando vicino a questa soglia. Questo è il quadro per quello che riguarda la reazione del mercato azionario. Molto interessante stamattina, Simone, non so se per l'attesa del voto tedesco, quello che è successo appunto sul mercato obbligazionario, perché il tesoro italiano era atteso appunto, per quello che riguarda il tesoro italiano, questo collocamento sul mercato di titoli a medio lungo termine fino ad un massimo di 9 miliardi di euro, e invece sono stati collocati titoli per 7,8 miliardi, è stato collocato questo BTP decennale con scadenza 1 marzo 2012 per quasi 2 miliardi e mezzo di euro, il rendimento di questo titolo è salito al 5,86%, a livello più alto dall'ottobre del 1997, per cui un po' di tensione rimane, anche se l'asta è andata appunto piuttosto bene, ma il mercato continua ad essere molto severo nei confronti appunto del paese Italia e a chiedere remunerazioni molto alte appunto per sottoscrivere i propri titoli di debito. E naturalmente una tensione che si è alzata soprattutto da quando Standard & Poor's ha declassato il nostro debito. Questa è la situazione, Simone. Buongiorno, buona giornata. Grazie, grazie a Deborah Rosciani e buona giornata. Veniamo adesso a quel che sta succedendo più specificamente in Italia. Il Presidente del Consiglio si scusa ma è assediato da impegni vari, sono giornate intense e per certi aspetti turbolente. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, secondo quanto si apprende da fonti presenti al seminario a porte chiuse che si sta svolgendo sul tema delle dismissioni. Intanto il Corriere della Sera ha reso nota la lettera che la BCE aveva inviato al governo in vista della manovra economica estiva. Dunque facciamo il punto. sia dal lato del seminario sulle dismissioni, sia dal lato di questa lettera al Corriere, con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno, partiamo dalla lettera del Corriere. Liberalizzazioni, flessibilità del lavoro, misure sulle pensioni. Risale al 5 agosto scorso la lettera spedita dalla BCE al governo italiano con alcuni consigli su come e dove indirizzare la manovra estiva. Un documento strettamente confidenziale, quello partito da Francoforte, che di fatto ha indotto l'esecutivo ad accelerare gli interventi di correzione dei conti pubblici a partire dal pareggio di bilancio inizialmente previsto al 2014 e poi portato al 2013. La missiva della Banca Centrale Europea indica le misure antispeculazione da adottare con urgenza dall'Italia per rafforzare la reputazione della sua firma sovrana e il suo impegno alla sostenibilità del bilancio e alle riforme strutturali. Come prevedibile, la lettera firma Trichet, ma elaborata insieme, secondo indiscrezioni, al prossimo presidente della BCE, Draghi, apre un fronte politico. Per le opposizioni dimostra l'inadeguatezza del governo nell'affrontare in maniera autonoma la crisi. Si conferma che le nostre decisioni vanno nella giusta direzione, replicano dalla maggioranza. Coalizione di governo alle prese intanto oggi con il tema delle dismissioni pubbliche, con il seminario voluto da Tremonti con il mondo produttivo e finanziario. Infine la corsa per la guida della Banca d'Italia è un testa a testa Sacco Manni Grilli con il primo che resta al momento favorito. E da Roma è tutto. E grazie a Vincenzo Miglietta. In arrivo intanto i provvedimenti per rilanciare la crescita e lo sviluppo. Così oggi il ministro Romani al microfono di Alessandra Schepisi. Le liberalizzazioni alcune le abbiamo fatte ed altre sono allo studio nei decreti che sono sui tavoli e sulle quali stiamo facendo degli approfondimenti. I tempi per questi provvedimenti sono di 1-2 settimane, ma ripeto, parliamo sia di infrastrutture, parliamo sia di liberalizzazioni, parliamo eventualmente di privatizzazioni, parliamo soprattutto di semplificazioni. A proposito di sviluppo, c'è un capitolo che attende risposte, quello delle energie rinnovabili. Oggi l'ANEV, l'Associazione Nazionale Energia del Vento, ha occupato una pagina intera del Corriere della Sera per denunciare il fatto che proprio da oggi il paese è senza una normativa per l'eolico. Cristina Carpinelli ha intervistato il presidente dell'ANEV, Simone Togni. Il nostro settore, il settore eolico, sta vivendo da un anno con un'attesa che ha bloccato lo sviluppo delle nuove iniziative e aveva come data di scadenza per l'emanazione da parte del governo dei decreti attuativi la data di oggi. Il fatto che ad oggi ancora non sia uscito nulla ci fa chiedere appunto di avere una maggiore attenzione su questo tema, l'eolico e le rinnovabili che potrebbero dare sviluppo e occupazione, e per questo abbiamo ritenuto di fare una segnalazione di sensibilizzazione. Voi avete detto che siete disposti anche ad attendere nel caso però si arrivi alla quadra e a una situazione che sblocchi il settore. Sì, se questa attesa ulteriore, che il sistema comunque sta pagando molto, dovesse servire a avere un provvedimento organico che metta insieme meccanismi di sostegno, semplificazione ed efficientamento del raggiungimento degli obiettivi comunitari al 2020, noi chiaramente accetteremo anche questo ritardo di buon grado. Ecco, il ritardo lo state pagando, ci può quantificare la cifra? Ma il nostro settore potrebbe dare al 2020, secondo i piani del governo, 66.000 posti di lavoro. Oggi ce ne sono 30.000 già nella filiera nazionale dell'eolico occupati. Purtroppo un 30% del lavoro attualmente occupati sono messi a rischio se non verrà presto rimessa a posto la situazione. Veniamo adesso all'inchiesta sulle escort e sui presunti ricatti al Premier. La Procura di Roma ha deciso di inviare gli atti dell'inchiesta alla magistratura di Bari. Come atteso, Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, sì, come avete detto voi da studio, la Procura di Roma invia gli atti dell'inchiesta sul caso escort alla magistratura di Bari, indicata dal Tribunale del Riesame di Napoli come competente sul caso, tutto ciò per la necessità di definire la posizione di Walter Lavitola, attualmente latitante. E Berlusconi ieri sera si sarebbe sfogato con i suoi del PDL anche alla festa di compleanno organizzata da Alessandra Mussolini, un premier stanco che si lamenta dei giudici e pensa anche ad una commissione d'inchiesta sui magistrati. Poi governo salvo ieri sulla mozione di sfiducia a Saverio Romano, ma subito oggi sotto alla Camera su un ordine del giorno del Partito Democratico, 24 voti di vantaggio dell'opposizione sull'8 per 1000, ovvero sulla ripartizione della quota destinata allo Stato. L'ordine del giorno impegna il governo a prevedere la possibilità di destinarlo anche alle scuole pubbliche, ma al di là del valore intrinseco del voto è il dato politico a segnalare ancora una volta le difficoltà nella maggioranza quando non si vota la sfiducia ad un ministro come Romano o per casi eclatanti come la richiesta di arresto a Marco Milanese. E per il momento qui da Roma è tutto a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Intanto chiuse le indagini sulla Sanitopoli pugliese. Ieri sera i carabinieri hanno notificato agli indagati l'avviso di chiusura delle indagini preliminari. Sono 41 le persone che ora potrebbero andare a processo nell'inchiesta sulla sanità pugliese. Fanno parte di quella che per la procura di Bari era una vera e propria associazione a delinquere, guidata dall'allora assessore Alberto Tedesco, oggi senatore eletto nelle liste del Partito Democratico. Un'organizzazione che avrebbe gestito appalti e pilotato nomine nelle ASL della regione, con l'obiettivo di favorire imprenditori amici e finanziare illecitamente le attività dei partiti di Tedesco, prima una sua lista autonoma, poi anche il PD. Ai 41 indagati sono contestati a vario titolo anche i reati di rivelazione del segreto d'ufficio, truffa, corruzione, falso materiale ideologico e peculato. Per Tedesco gli inquirenti baresi avevano chiesto l'arresto, ma la loro richiesta a luglio è stata respinta dal Senato. Sono contento perché ora in un'aula di tribunale potrò finalmente dimostrare la mia innocenza, ha commentato il senatore che dopo essersi autosospeso dal PD è passato al gruppo misto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Le 13, 15 minuti e 25 secondi, nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato del via libera con ampia maggioranza del Parlamento tedesco al piano salva stati e quindi degli aiuti alla Grecia. Abbiamo parlato della reazione delle borse che sono positive e del rendimento dei BTP italiani. Oggi c'è stata una nuova asta e si sono raggiunti livelli che non si vedevano dal 1997. Abbiamo parlato del settore eolico e delle inchieste che riguardano il Presidente del Consiglio da una parte e dall'altra parte l'inchiesta sulla Sanitopoli pugliese. Adesso parliamo di austerity nello sport. E parliamo del CONI, il governo dello sport, vista l'aria che tira, ha deciso di fare quello che la politica non sempre fa, tagliare le spese a partire dalle province. Lo conferma il presidente Gianni Petrucci, intervistato da Dario Ceccarelli. Sul tavolo della giunta è in discussione il taglio di tutti i comitati provinciali e una drastica riduzione del numero dei dirigenti federali per arrivare all'appuntamento dell'anno olimpico 2012 con i conti a posto. Sentiamo l'intervista. Ma voi siete gli unici per il momento che tagliano le province? Ma io parlo per me, parlo per il CONI, parlo per quelle che sono le nostre iniziative, ma non avevamo altra scelta. Se vogliamo dimostrare di meritare il finanziamento in un momento difficile come questo della storia del paese, dovevamo anche dare una dimostrazione di buona volontà, di umiltà e cercare di tagliare quello che è possibile tagliare. Quanto pensate di risparmiare più o meno? Ma noi abbiamo fatto dei calcoli che vanno 20, 25, 30. Oggi abbiamo presentato una delibera programmatica. Abbiamo fissato un Consiglio nazionale tra qui un mese e mezzo o per passare agli atti formali, perché ovviamente questo ha bisogno di cambiamenti di strutture interne. Abbiamo assicurato che il personale che lavora nel governo provinciale non avrà problemi perché sarà destinato ad altri incarichi. E tutto questo sarà fatto con l'accordo dei sindacati. Di solito in questi casi, si è visto anche nella politica, diciamo non sportiva, ci sono resistenze, ostilità, ribellioni. Come sta andando? Ma probabilmente ci saranno, ma questo non può interessarmi in questo momento, perché quando si ha la responsabilità di un governo, anche come quello sportivo, si deve guardare avanti. È facile dire di sì, e sui no che si vede se uno è capace e ha la serietà del movimento sotto controllo. Certamente i presidenti non saranno contenti, ma non ci posso far nulla, questa è una realtà. Poi ci sono le regole che decide il governo, la giunta e poi il Consiglio nazionale. Quando oggi la giunta mi ha confermato la propria adesione, la sua adesione, è chiaro che io vado avanti come una spada. E andiamo all'estero. L'Interpol ha spiccato un mandato d'arresto a carico di Saadi Gheddafi, uno dei figli del Rais, su richiesta delle nuove autorità libiche. In Giappone un terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato nel paese alle 19.05 locali e 12.05 in Italia, con un epicentro individuato nell'area costiera della prefettura di Fukushima, non lontano dalla disastrata centrale nucleare. Lo riferisce la Japan Meteorological Agency, che non ha lanciato alcun allarme tsunami. E ora in Africa, raccolto a rischio siccità in Africa orientale, a Giuba, Sud Sudan, l'allarme della FAO: la produzione non basterà a sfamare la popolazione. Instabilità e scontri tra eserciti lungo i confini settentrionali, incertezza delle piogge e dei raccolti, massiccio ritorno della popolazione verso i villaggi d'origine per effetto dell'indipendenza da poco conquistata. L'ONU aggiunge il Sud Sudan alla lista dei paesi a rischio carestia dell'Africa orientale, accanto a Somalia, Etiopia e nord del Kenya. Il raccolto in questa settimana che chiude il ciclo delle piogge non basterà. Secondo la FAO, le 900.000 persone colpite da grave insicurezza alimentare quest'anno saliranno a 1,2 milioni nel prossimo, anche a causa di una vertiginosa crescita dei prezzi alimentari. Torta amara in vista dei 100 giorni del Sud Sudan, lo stato estafricano che ha guadagnato l'indipendenza, nell'anno in cui sulla regione pesa un'annata di piogge sporadiche e insufficienti. L'ultimo scossone arriva da eBay, al confine nord, 8.000 rifugiati solo questa settimana, in fuga dagli scontri lungo la frontiera del Kordofan. Complessivamente sono almeno 340.000 gli arrivi dall'inizio dell'anno, quando la pace, dopo anni di guerra, ha spinto molte famiglie al ritorno, nonostante le condizioni difficili. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Ritorniamo all'Italia. Si è dimesso ieri sera il sindaco di Parma Vignali, assediato dalle inchieste per corruzione piovute addosso adesso anche alla sua giunta. Ne parliamo tra poco in Italia in Controluce. Ecco un'anticipazione del reportage da Parma di Raffaella Calandra, che ha sentito un'indignata, una delle persone che ha protestato per giungere a queste dimissioni. Ci ha portato in piazza innanzitutto il desiderio finalmente di guardare in faccia coloro che noi da anni sosteniamo stiano amministrando la città più come un affare privato che non per il bene comune dei cittadini. Secondo noi doveva essere finalmente chiaro che non è sufficiente che si dimetta un'amministrazione comunale, va cambiato radicalmente il modo di fare politica, di rapportarsi ai cittadini, dare loro voce e soprattutto di tenere presenti prima di tutto i loro interessi. Dai casi di presunta corruzione di Parma all'evasione fiscale con la nostra rubrica. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Il reddito medio dichiarato da estetisti e parrucchiere, incredibile, 8.700 euro lordi all'anno. La media è addirittura abbassata da estetiste e parrucchiere che lavorano a casa e in nero, che non rilasciano ricevuta o che adoperano manodopera illegale. E tutti fanno concorrenza sleale agli operatori onesti del settore, che invece denunciano al fisco fino all'ultimo centesimo, operano alla luce del sole e pagano contributi a collaboratori e assistenti. Piccole evasioni, si dirà. Mica tanto. L'Agenzia delle Entrate ha accertato nell'ultimo anno e mezzo maggiori imposte per 50 milioni di euro, come spiega Massimo Variale. Il dato dichiarativo sicuramente lascia delle perplessità, con tutti le cautele del caso, perché ovviamente se le medie hanno il senso che trovano, perché bisogna analizzare poi effettivamente in profondità. Però il dato dichiarativo cosa dice? Che su un giro d'affari complessivo anno di 4,6 miliardi di euro, i ricavi mediannui sono circa 35 mila euro e il reddito medio annuo dei soggetti si attesta su 8.700 euro. Sicuramente si lascia perplessi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Sole 24 Ore. Bacchettate dall'Europa oggi con una serie di provvedimenti di messa in mora da parte della Commissione Europea. Un provvedimento riguarda la mancata piena applicazione in materia di efficienza energetica per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici, un'altra l'uso illegale delle reti da posta derivanti nel Mediterraneo e poi la questione rifiuti. Sentiamo. La Commissione europea ha avviato 6 procedure di infrazione contro l'Italia, fra cui una per il caso rifiuti, una messa in mora annunciata che a Napoli nei giorni scorsi aveva già provocato tensioni tra il sindaco e il presidente della regione. Se Caldoro ci seguisse, aveva detto De Magistris, invece delle sanzioni arriverebbero plausi e soldi. L'Italia avrà comunque 2 mesi di tempo per reagire. La lettera, firmata dal commissario europeo all'ambiente Potocnik, rappresenta l'avvio di un iter, il cui passo successivo, in caso di inadempienza, è la messa sotto accusa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, accompagnata da sanzioni pecuniarie. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'internazionalizzazione della scuola italiana è ferma ad un terzo del cammino. L'indice elaborato dall'Ipsos è del 37%, come nel 2009, ma sono stati fatti anche molti passi avanti. È quel che emerge dal terzo rapporto dell'Osservatorio Nazionale sull'internazionalizzazione, appunto, realizzato da Ipsos per la Fondazione Intercultura e la Fondazione Telecom Italia. Il commento del presidente Ipsos, Nando Pagnoncelli. processo di internazionalizzazione delle scuole si mantiene sui livelli stabili rispetto a 2 anni fa. La metà delle scuole ha avviato progetti internazionali, oltre un terzo non fa nulla da questo punto di vista. È interessante osservare che da un lato il 30% delle scuole ha nel proprio ambito almeno uno studente che sta facendo un'esperienza di mobilità all'estero, quindi un anno intero o 6 mesi all'estero, e le mete preferite sono gli Stati Uniti, ovviamente, che prevalgono largamente su Australia e Gran Bretagna, in crescita la Germania. Qui abbiamo ancora delle differenze significative tra nord e sud, in particolare il nord-est ha dei livelli di internazionalizzazione più elevati, il sud è decisamente molto più fermo, i licei ovviamente hanno un ruolo preponderante, ma grande crescita abbiamo osservato degli istituti professionali e degli istituti tecnici. Siamo quasi in chiusura, prima parliamo di Torino Spiritualità, che è la rassegna del Circolo dei Lettori che da 7 anni si svolge nel capoluogo piemontese. 4 giorni per parlare appunto di spiritualità, non soltanto in relazione alle diverse religioni, con 80 di incontri e più di 100 ospiti italiani e stranieri. Antonella Parigi, direttore di Torino Spiritualità, racconta ad Adriana Fracchia come è nata l'idea di questa rassegna. È nata 7 anni fa in realtà da un progetto teatrale fatto da Gabriele Vacis e Roberto Tarasco, nel senso loro avevano fatto un lavoro in seguito alla caduta delle torri nel 2001, avevano fatto un lavoro su Nathan il Saggio ed era stato un momento molto bello anche perché c'era un pubblico assolutamente diverso da quello tradizionale, no, della cultura, del teatro, e quindi di lì mi è venuta questa idea di trasformare quella che era stata un momento occasionale in una cosa continuativa, dove dietro c'è un'idea di base, no, di un elemento comune comunque tra tutte le religioni e tra quindi credenti e non credenti, cioè quindi la presenza di una spiritualità e di un nucleo umano condiviso. Quanto è importante cercare di recuperare, soprattutto oggi, una dimensione etica e spirituale dell'essere umano? Ma una dimensione spirituale c'è, che uno lo voglia o non lo voglia, nel senso è una delle caratteristiche, no? Comunque della diversità dell'essere umano, no? Quello che invece diciamo è qualcosa da conquistare, è una dimensione etica, di ricerca, di profondità. Secondo me in questo momento credo che tutti ci rendiamo conto di quanto l'averlo abbandonato sia negativo nella nostra vita quotidiana. Ed è tutto per questa edizione di GR24 condotta da Simone Spezia, curata da Alessio Maurizi e con in regia Roberto Scaltritti. Il prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.